colazione, apprezzo poco a poco. Riprova Riccardi. 1, 2, 3, prova radio, l'ho abbassato ancora un pochino. Sì, avanti il radio un melontano in Cina. No, un pelino sollevalo, Riccardo. Ok, adesso l'ho sollevato un pelino, 1, 2, 3, prova radio. Quando parla, come lo sono fatto quel rumore a pezzo? Sì, c'è un rumore, c'è un rientro di radiofrequenza, quello non è il microfono. C'è qualcosa lì vicino che sta disturbando l'emissione microfonica, Ricca. Cosa c'è lì attaccato? Che non sia l'alimentatore che sta facendo questo problema. Che non sia l'alimentatore, perché quel microfono lo stavo usando io e io per macchina non l'ho mai fatto. Tu ti porti appresso, e quel rumore lì te lo portavi appresso anche con l'altra radio che c'ha Fabrizio adesso, che te la sta riparando. C'è qualcosa lì che non mi convince, vediamo io, mi avvicini con la strumentazione a dare una controllata lì, perché c'è qualcosa che sta disturbando. No, no, sicuramente l'alimentatore, non è altro. Allora, se è l'alimentatore, non puoi mettere l'alimentatore più lontano, una prolunga, insomma, fare in modo che l'alimentatore sia un po' distante dall'apparato, per evitare sempre quello. Non lo so, mi sembra che avevano già fatto il prove con Fabrizio, non so, io non sono ancora andato a vedere come è organizzato. Quindi non lo so, andiamo a vedere lì cosa c'è che disturba, perché al limite lì bisogna farle un cavettino di massa, un giallo-verde attaccato da qualche parte, dalla radio a qualche parte, in modo che non entri in elettrostatica. Comunque c'è solo questo, Ricca, ma Claudio, io giustamente se sono intervenuto vi chiedo scusa, ma a me piace la persona, non esce bene, per esempio tu esci adesso la voce, tu come ti sento sempre, Claudio, perfetta, ok, a bomba. Se c'era qualche difetto, come la volta te l'ho detto, giustamente. Però per il caso non mi è piaciuto, quella voce sembra che io ho detto, Riccardo ce l'è così. Ma adesso lo senti meglio? Prova, Ricca. No, adesso ho rimesso il turner, perché era meglio forse. Sta andando peggio. Se è migliore. No, va meglio, lascia questo. Ok, va bene allora. Perfetto, modula così, a questa distanza, e lascia così, capito? Non lo so levare, Mickey Gaines. Lascialo così. Sì, lascialo così, Ricca. Ok, va bene. Adesso è bella la modulazione, Bella con gli acuti, già va bene. Non lo toccare, Mickey, Ricca, perché se lo sollevi è brutta la radio, è più bella così. Ho visto che non è facile regolarlo. Comunque l'ho alzato un pelino, come era prima, l'ho messo a 2,5. Sì, lascialo a 2,5, non più di 2,5, capito? E il microfono quanto ce l'hai? A 4, hai detto? No, il microfono è a 5. A 5, abbassalo un pelino il microfono, mettilo in mezzo, tra il 4 e il 5. Adesso il microfono è tra il 4 e il 5, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Oh, hai visto, ci siamo riusciti. Deve entrare Tonino a rompere le scatole, a dirci quello che dobbiamo fare. Boh, a due professionisti come noi, ma guarda un po'. Brutto grillone che non sei altro, che se invece sei contento che no, dico grazie qua che stai uscendo così, e a me mi bui, ma guarda un po' Claudio. Ma guarda un po' questo tuo cavaggiati, no, evidentemente era troppo alto, io non mi sono accorto perché l'abbiamo regolato, io ero appena rientrato dall'ufficio, diciamo, e mi ha mandato un messaggio a fare queste regolazioni, e quindi l'ho regolato al volo, però adesso stando attenti va meglio così, dai. Comunque dai, adesso è tutta l'altra cosa, dai, si può ascoltare, adesso è proprio lui Riccardino, cavolo. Hai visto Riccardino, adesso stai andando bene, dai. Ok, grazie Claudio e grazie Tonino. Ma insomma, dai, ci volevo io, porca miseria, per Marco. Porca miseria, ma dimmi tu, entra questo, hai capito Riccardo, entra questo a dirigere l'orchestra, due professionisti come noi, a dirci che dobbiamo abbassare, dobbiamo fare, ma guarda un po' questo Tonino Kawasaki. E non ti fa modulare. Allora, ciao Antone, buonasera. E ciao, buonasera anche a te. 5 secondi stanno da questa porta, ci sentiamo fra poco, ciao, saluto a tutti e due. Ciao Pomponio, 5 secondi acqua e sapone, come te chissà? Ehi, sono a fare spesa acqua e sapone, ho 5 secondi di... sono entrato veloce proprio, guarda. Ah, capito. Attenzione, se va un po' di sapore, poi fate dei buscicchi e poi scicchecci. No, speriamo io, ci mancherebbe. Io mi sembra fatto pagare così. 15 euro, i guanti, ce la faccio. Dov'è acqua sapore? Vai, vai da acqua sapore, vai. Avanti, Riccardino. Sì, stavo salutando Antonello, ciao Antonello. Ciao Riccardino, saluto anche a te, ben sentito. Comunque, Riccardino, vedi, queste sono le persone serie che se stai uscendo un po' male ti avvisano, giustamente. Quando esci in metro lo dicono. Non, io, perlomeno noi non ti vediamo in giro, dai. Sì, meno male, grazie. No, ci devi ringraziare. È nostro dovere, come i picchi polponi, nel senso della frequenza, che ci siamo un sacco di tempo, anche Claudio. E giustamente qualcosa che va poco poco male ci può riadrizzare, meglio che si corregga. E si conferma, positivo, dici conferma, ci puntella. Dove arriva forte, Chicco, È tutta la gira, dove in mezzo al male, è tutta la sera, cazzo. Se ci sono segnali bassi, io non sento niente, questo è Santiago 9. Tutta la gira uscire. E arriva forte anche qua, arriva. Di dov'è questo Pellegrino? Spagnolo, spagnolo, Portogallo, spagnolo, boh, già ne c'è due. Per esempio Rutten, la sia di giri domani. Ma sta a dire, attento e spana col cuello e spanato e sparisci. Invece di Palma di Mallorca, con le zone di. L'ho sentito stamattina, non è Minorca, è Palma di Mallorca. Ibiza, con le zone di. È tutta la lì rompendo le balle, a voi non ve ne già altri canali, no? Proprio Rudenti deve venire a rompere le scatole. E poi ma sono Rudenti, dai che ce l'hai facciato, non è gioco. Avanti Riccardi. Anche voi mi state arrivando forte, sì lo so, questi spagnoli, quando c'è la propagazione coprono a tutti, non ce ne fa nessuno. Sì, ma noi non ci copre Riccardi. No, anche voi arrivate forte là, no, tipo, sto parlando dei segnali bassi tipo Lupo Grigio oppure Claudio D'Amuros. A quello lo copre senza ombra di dubbio, se non arriva forte una persona, tu mi arrivi in fotoscala qua dopo. Claudio, lo stesso idem. Oh, c'è 8, 9, se ci sono segnali bassi li coprono, Riccardi, c'è 9.30. La chetonia sta arrivando forte, quindi non ce n'è problema. Va bene, va bene. E io se vuoi che ti faccia. Beh, riprendi un attimo Contolino, Riccardi, che mi assento un attimo. Vediamo se arriva Roberto, così lo chiedi anche a lui se stai andando bene, ma penso che non ci siano problemi. Vai tranquillo Claudio, che oggi sarai stanco. No, stancalo, cioè adesso si è messo questo vento, non posso tenere manco la finestra aperta, perché il maestrale mi prende in pieno, e a maestrale chiuso, se non fai aria mi manca la renomi. Ma comunque sì, bella giornata. No, io qua ti giuro qua, neanche un filo di vento in campagna. Vedo gli alberi sono fermi, le foglie manco si muove. Forse non punto più riparato al vento, non è in questa direzione. Comunque io altri 15 minuti al massimo si posso stare in frequenza, perché poi devo uscire. Avanti Riccardi. Ho visto, c'è già traffico adesso che è iniziata, è finita come dire, la quarantena, sono tutti in giro, non c'è più per nessuno. Adesso tutti in giro, facciamo passeggiate, adesso stanno apprezzando anche solo andare a fare la spesa. Stai tranquillo che se di nuovo chiudono tutto, che c'è altri contagi, stai tranquillo che in frequenza è solo pure come le vespe. Pochi ma buoni. Quello senza ombra di dubbio, sempre. Ho saltato tutte femmine, a me no. Ah, è buoni, a quattro lo dici così bene. Fatto che stare cazzo con maschi. Ma non ci sono più le donne di una volta qua in frequenza, prima c'erano. Appunto per quello, ormai sono tutti su Facebook, già lo sai. Uomini e donne cercano là e poi ti chiedono i soldi, quindi mi aspettare il momento opportuno che entra una ragazza e ci chiedono i soldi qua in 27 qua. No, qua non succede mai, che non è così, fregatene. Poi su Facebook uno può scrivere quello che vuole e non andrà bene, no. Certo, uno da Napoli non si può chiamare, diciamo qua a dire che si trova a Sassari, che è impossibile. Napoli arriva in propagazione o non arriva nulla. Già lo so, ti preoccupare per quello, lì ci mancherebbe. Dovrebbe per quello. Andare là. Aspetta un secondo a farmi la spesa e sto arrivando subito. Dopodiché... mi ha chiamato Fabietto per la divantena, adesso vediamo boh, senta 27 o senta VHF, adesso vediamo un po'. Certo, se poi quelle persone trovano persone dolci, che si fa veramente la pera, per carità. Avanti, Riccardo. Break. Avanti, Carlo. Avanti, break. Salutone circolare a tutti. Ciao, ben sentito. Daniele da questa parte. Ciao Daniele, ben ascoltato, Alfa 21 a questa parte. Ciao Daniele, ti arriva qualche messaggio, ci sentito. Si conferma. Vabbè Daniele, tutto a posto, sì. Tutto a posto, qualche a posto. Quello che da sistemare si farà. Mannaggia, va bene. Ciao. Becco. Avanti Marco, buonasera. Ma che Marco? Che ce l'ha? Ah, Talino, guarda, fa la cucchia. Avanti, Talino, scusa. Ah, Talino. Chi è che mi chiama? E tu hai precato. Ciao, Tony. Ciao, Natalino. Non conosco più la voce a tuo Marco, Marco. No, sembrava Marco la verità, comunque sia, vabbè, scusa. Ciao, Talino, buonasera. Perché mi è arrivato l'omologato, Tony? Mi è arrivato oggi invece di arrivarmi il giorno 5. Io lo sono delegato quello. Ah, si è preso l'omologato nuovo. E ora? Non serviva quello, no. Io. Ho preso questo qui. E andava. Commetto il 2009. Ma Natalico, cioè, con le mandorle o senza mandorle, mi regatto? Con le mandorle. Il 2009, come quello di Gianni, come quello di Marco. E l'ho preso proprio perché ho omologato e marcato C, e capito? Meglio così. Comunque qua ci sono due apparati, sono li ho visti stamattina, li ho messo su Facebook poco fa. C'è un una specie di, quello che posso dire, sono due apparati belli, ma veramente belli. A parte un stato meco che faceva solo schifo a vero dagli Stati Uniti, ma comunque sia, gli attivi sono veramente belli. Bisogna prendere al volo la verità. Uno è come quello che c'è Marco, la verità, e l'altro è un Galaxy Pluto, però marcato Sommercamp. No, no, è per più baracchini. Io c'ho il Cobra. C'ho il Cobra, c'ho il Volmar, ce ne ho i baracchini, non ne uso intanto, io vedi che uso questo, baracchini, cosa? Se uno da fa vedere ti ammazzano i cosa baracchini, poi il Cobra mi ciò che non prende colpi ed è praticamente è meglio di un HF, sono 10 metri stasera col Cobra, 10 buco forti, io ho la versione da 200 watt. Capito? Quello c'ha 180 watt in banda laterale e 120 watt in AM. Capito? Perciò c'ho quello e basta, poi uso il K io Antonio in baracchini, no? Spendo altri soldi, ne ho speso anche tu, basta, finito. C'è il Cobra per esattezza, costa una cazzata, 75 euro. Devi solamente mettere un'offerta, l'ho messo su Facebook questa sera. L'ho visti per sbaglio stasera. Tu c'è stato un eco, io avevo 182 euro senza coperchio, senza nulla, va a far culo. Quello Marco ce l'ho messo, la verità. Ma il Cobra ce ne sono tre versioni, quello che c'ho io, nuovo costa 750 euro, io ho pagato 350, poi c'è la versione da 10 watt in AM e 15 o 25 in SSB, e poi c'è la versione da 100 watt in SSB e 45 in AM. La mia ti ho detto che la versione da 100 watt, più di 100 watt in AM e 200 in SSB, cioè lineare sotto la pancia il mio, hai capito? C'è il dissipatore sotto la pancia da 200 watt. Oh, se metto una cosa del genere mi metto in galera, a me perché niente, va. Non mi interessa niente, la verità. Dopo, aveva la voce, no, non va bene. Va bene, comunque sia, fai girare, non c'è problema per quello. No, questo c'ho io, un'altra cosa, ce l'ho io Massimiliano e Bucco, ce l'altro nessuno. Io so così, poi ne ho viste uno in vendita ma non c'era il lignare sotto la pancia, questo non si può togliere la staffa perché deve essere sollevato, perché c'è sotto la pancia c'è un lignare tipo un B300, mi capito? È nato così questo, perché è la versione a 200 watt, gli altri dove ci sono piatti normali, come i baracchini normali, e c'è un dissipatore dietro, dove c'è il PL. Questo ce l'ha sotto la pancia, non è grande però, quanto è lineare. Avanti Riccardi. Ehi, Claudio, questa è Greca, tutti e due. Non ho capito. Ti capito, questa è Greca. Sì, ok. Un attimino, mi assento. Ok, buona, questa è Greca. Antone, come sta uscendo col microfono normale? Beh, se gli apri il WC è meglio, guarda, la verità. No, no, no, no, no, questo non si tocca. Non tocca, se. Già lo sai, ma cosa? Ehi, non tocca se le palle, basta cercare regolato tu, no? Ehi, apri il WC e basta, non devi fare nient'altro. No, che l'ho preso nuovo, perdi la garanzia se lo apri, capito? E voi, la butica, tiro così. Se ne vedo male così non c'è problema. Cosa ti posso fare? Non ha neanche i canali, questo qui è bloccato, mi. Non ha né canali, nulla. C'ha 4 watt e bu. Io sparo dei canali, e poi sono mette dell'audio. Se gli apri il WC, non ti succede nulla, perché la vetta è normale. Questo parlo, se gli apri il canale, allora il discorso è diverso. Cambia tutto, capito? E io per quello non li apro neanche le WC, perché non me ne sbatte niente. Basta che esca bene. E vabbè, se ti piace quello, va bene così, qual è il problema? Se no già lo so che si può aprire, però a me mi serve omologato, perché l'altra volta sono saliti con l'analizzatore di spettro. Se tu gli apri le LC, notano che è aperta, loro se ne accorgono, capito l'hai, Antone? Non posso toccare nulla. L'altro perché non lo toccate né niente, perché per quel motivo. Infatti me li tengo tutti e due, perché sono tutti e due omologati e sono a posto. Vabbè, meglio così, cosa vuol dire che io? Non ti posso dire niente. Quindi a un certo punto anch'io faccio così, d'altronde, quindi. Ai, caro. Ciao, caro, tutto sì che mi cambia il nervo. Come sto uscendo io da così? A così. Boh. Come boh? Guarda un po', da così a così. Cambia qualcosa. Sì, 9.20, cioè 9.25, 9.20. Non cambia molto però, Buonasera a tutti. Ah, bella, ok, non c'è problema. Se faccio banda laterale sono di più, una volta, vabbè, quello che sia. Ti ringrazio. Adesso due minuti, vado un secondo da questa prova e poi rientro subito. Ma che a fuoco Simona. Stamattina l'ha fatta uscire, meno male, la prima volta. Ingrata, diceva quello. Vai Marcolino. Oh, Tonino Kawasaki. Dai, ma non mangi così, vado mi ecciti. Fammi sentire i peli. Fidio Ferro. Ehi, ma qualcuno ha parlato sotto o c'è un innesco quando premi tu, una specie di tipo alimentazione, no? Prova un po', Tonino. No, non può essere. Premi. No, c'era qualcuno sotto allora. Molto sotto. Bene, comunque Natali, facciamo una cosa, adesso noi organizziamo un bel falò, no? Tipo il falò da spiaggia, e in mezzo ci buttiamo tutti e due i Polmar ZX40, li dobbiamo bruciare. E c'è anche Antonello che ce l'ha. Antonello. Ah, vabbè, ma lui non lo so, magari lo vuole tenere per l'omologazione. Se non mi, su focarone, come va bene per due, va bene per tre mi. E infatti, adesso quando rientra glielo dico a Pupunio. Se li bruciamo, ma me lo tengo. Se vi per omologazione, sia uno che l'altro. Solo che là, che il Polmar è una schifezza. Antonello. E io a chi mi chiama? Io. Mi serve un barilotto, ce l'hai? Magari. Sotto avrei anche un altro. cazzo, mi fai della filaci vicina, ma sta di in guardia. Ecco, se si posso fare, ma qui non ne ho la vetta, grazie a tutti, Mariotti. Per poter agganciare due le cave assieme, non ce ne manco uno, la vetta. La vetta me la prendo. Ha dato tutti i barilotti e le è rimasto il briglioso. Ma è difficile da trovare? No, è che va a giocare io a campagna da pigliare un barilotto per rompere palla, ragazzi. Ah, che poi sarebbe la doppia femmina PL, così è. Roger. Ehi, comunque abissale la differenza tra lì, tra il Polmar con quel ridicolo microfono di serie e quello lì proprio uscito dalla scatola. Abissale la differenza. Proprio l'hanno fatto per uscire male il Polman, non si spiega, non... Sì, un po' in FM migliora, però vabbè, ma già l'ha visto il paracchino è, no, cioè, il Polman è un... sarà di dimensioni un quarto del 3009. Io mi ricordo, Tony, a proposito, mi ricordo a suo tempo, mi pare Piero Drago aveva un Superstar 3006, poi mi confermerai, e usciva limpido di modulazione, me lo ricordo, sempre limpido è stato. Roger, confermo. Che poi erano i progenitori dei 3009 moderni, capito? Perché il 3009 lo stesso esiste da 30 anni, poi l'hanno un po' migliorato, hanno fatto le versioni, mi pare che siamo arrivati, questa è la EPT, la scheda, EPT 3006 15C come versione. Non so se ne abbiano fatte altre, la verità, perché la Proxel che lo importa in Italia non lo porta più, capito? Non, se lo vuoi bisogna ordinarlo per forza dalla Spagna. Quindi costa di più, non ha garanzia italiana, costa di più la spedizione, capito? Però quello che dico io, Tony, tu lo sai che l'Alan 48 di una volta era già migliore, no? Come modulatore, era i componenti classici. Cioè, piuttosto che spendere 190 euro per un 3009 che è solo MFM, tanto vale spendere la medesima cifra e un 3009 a parte è più bello, cromato, cioè tolto dalla scatola e se già discretamente. E in più è omologato come il 48, l'omologazione CM, tutte queste cose che hanno inventato per rubare i soldi a noi CB. Comunque c'era anche l'SBE, che ce l'aveva un po' di persone, 69 canali, non so se te lo ricordi tu. No, dovrei guardare su internet l'SBE. Aspetta che ore sono? 7:05, sì, devo ancora preparare, mamma mia, devo preparare ancora a mangiare, dai, vi lascio, devo scappare. Ciao Natalino, ciao Tonino, ciao Antonello, riprendete, QRX per me. Oh, ripeto veloce anch'io, devo uscire anch'io, tra 10-15 minuti, ma mi sono trattato in più, che c'è un appuntamento. Ciao Marcolino, ciao Pompone, ciao Natalino, alla prossima, ciao ciao. E io fa poco là, che vado da quel sapone, piglio da dopo che devo pigliare, poi ci stiamo dopo là. A da voi, ciao. Ciao Antonello, Marco e Tonino, alle prossime, da. 10 minuti e sto diventando Natalino, allora poi dai, stammi bene. Altrettanto. Poi Natali, se vuoi ascoltare qualcosa, stanno facendo prove a 30 microfoniche, ok? Ci sentiamo, ciao ciao. Sono contento per te, dai. Ciao ciao, man. Thank you. Va bene, io sono qua, per il momento vi lascio e vado a portare in camera. Ci sentiamo alle prossimine più tardi. Avanti, riprendi Natalino, riprendi Riccardino, riprenda chi vuole, a dopo. E dove sei? Chi è avanti? Cosa vedi pesce, Lugani? Siete tutti a frusci, chi è? 110, c'è qualcuno? Vabbè, io sto andando a portare il cane. Perché c'è gente fischiando qua, e se no perdo il cane poi. No, non so chi c'è davvero, ho sentito qualche fischio, non so, beh, sentiamo dopo. Va a recuperare Riccardino, invece qua. Ok, ok, a dopo qua. Ok, avanti Riccardino, sì, sì. Vabbè, io tengo acceso, se c'è qualcuno che vuole entrare, canale 10 sono qua. Perché? Chi avanti? Sono io. Cosa ti volevo dire? Ma molto basso perché esce? No, già va abbastanza bene, ti ascolto Radio 5, magari rispetto a loro sei più basso, ma la radio è molto meglio di prima. E c'è un microfono normale, mi. No, intanto ascolto bene, sentiamo 9 più 20, radio 5, abbastanza chiara, cioè non è amplificatissima, però è chiara. Ehi, col microfono normale cosa vuoi pretendere? È tutto chiuso questo, no, se lo apro perdo la garanzia, perché l'ho comprato nuovo. Ma che c'è, Riccardino? Mi siete spostati, mi ha chiamato un attimino per dire che è arrivata roba alla Lidl, perché me l'ha chiesto un tipo, Giovanni, ritorno non vorrebbe nessuno, dove siete andati? Sono tornato. Eccolo qua, ma ti ho detto, boh, spariti tutti, insomma. No, ero al telefono. Ah, così sì. Natali, no, va benissimo, naturalmente non è una radio di quelle da combattimento, ma ti ascolto, ma puoi abbinarci anche un MB più 5 o qualche microfono amplificato? L'MB più 4, cioè, va bene. Gli attacchi, aspetta un attimo. Prova, no, dai, lo vediamo. Io attacco l'MB più 4, mi ci sta anche il tuo microfono a palmo, cazzo. Mamma mia, come sto. Che va? Antonio. Ma infatti, vabbè, ma te non dimmi, ma lo già dimmi. Attacca il microfono a tavolo, non cambia niente, tanto ci disturbi un chiscio normale, disturbi un chiscio a tavolo. Magari ancora a tavolo non disturbi, io faccio sentire che devo uscire. Azzardo! Davvero? Ma vero? Davvero, ma però mi è appena rientrato, dai, sono andato dal medico del cane, e via. Ascolta, guarda che quello è Viale Caprera, la Tortiana, è bravissimo, a me mi ha curato Filippo, me lo volevano operare, invece lui me l'ha curato. Quindi facci, perché è una bravissima persona. Quello se te l'ha dato Giuseppe Tornaro, il numero facci, anche a me me l'ha dato lui, ed è veramente un bravo veterinario. No, me l'ha dato la signora, me l'ha dato Giuseppe Tornaro. Sì, dottor Tiana, sì, la verità, me l'ha praticamente con la vaselina gliela ha mandata dentro, quella che gli usciva fuori, da quel prolasso, contro il bugiama. Però gli esce di nuovo, poi mi ha dato queste medicine da prendere in 8 giorni. Così ha fatto per Filippo, non vogliono operare per l'ernia cervicale, capito? E invece il cane sta benissimo adesso. Io Natali, fammi sentire questo microfono che devo uscire. Guarda, 1, 2, 3, prova, questo è l'MB più 4. Aumenta però, come manetta, alza. E alza 2, solo che è normale questo. Già va bene, usa questo, ma cosa stai con questo cazzo di microfono in mano? Usa questo e va bene, vai vabbè, ci sentiamo dopo, abbraccio a tutti. Ciao, a dopo. Ma c'era Luca e Antonio Riserva pure, o sbaglio? Io saluto Claudio. Ciao Cla. Luca, Antonio Riserva ci sei? Ti sento male Anto, come va? Ti sento tutto frappato, ti sento tutto a pernacchia, non sei chiaro di radio, segnale 9 più 10 ma la radio prova a parlare. No, adesso ti ascolto bene, poco fa eri tutto a pernacchia, non riuscivo a capire che eri tu. No, adesso già va bene, sei tu, dai. C'è anche Riccardino, avanti Riccardino per Antonio. Ciao Antonio, ben ascoltato. Stai andando via, non ho capito, aspetta che mi sono perso. A che apparato è altro per curiosità? Perché c'è molto quel servizio stranamente. Ma l'altra volta ti ho ascoltato, o mi sbaglio, molto meglio. Ebbene, vabbè. Telefono a posto, sì. Sì, alla grande, lui, tutto a posto. No, sto dicendo Antonio, perché la radio si vede che è bella, corposa, però c'è questo USB, passi da 8 a 9 più 10. Robè. Ma un attimo, sta parlando Antonio. Vai Antonio. Ah, allora il problema solo di cosa. Dimmi Riccardo. Guarda la foto che ti ho mandato. Ok, vai Natà. Già sono qua io. Oi. Sto per andare a cena, dai. Rimango in quel RX. Cosa? Nessuno, a casa so. Riccardo? Allora, quello lì è uguale alla Adonis 908 che ci vuole, solo questa è la versione dorata. Il prezzo già è buono, però ne stanno vendendo una Adonis 908. Lo stanno dando senza il cavetto, 50 euro, nuovo, che è uguale a questo, non cambia niente. Ah, se mi mandi la foto, se no me lo cerco. Lo devo guardare su internet, dai, se lo trovo te lo mando, dai. 50 euro ed è un ottimo prezzo, però bisogna prendere il cavo, siccome è a crimpare quel cavo che c'ha col microfono in particolare, bisogna saperlo fare e ci vuole la crimpatrice. Ah, ho capito, ma cosa ti sembra questo invece? No, quella è la versione, diciamo, top, nel senso uguale all'altro, gli hanno messo i controlli, gli slider un pochettino più grandi, le manopoline, l'hanno verniciato di argento. satinato, c'è danneggiato, l'hanno fatto anziché nero, io ce l'ho nero, quello lì è fatto, però è identico, il microfono non cambia niente dall'altro. Non lo fanno pagare più perché questa è la serie, diciamo, speciale, dai, serie limitata. Sì, ho capito, stavo pensando un attimo a un ricevitore, ma se attacco il discone al... non al K, che se no mi spavento, che se si rovina, a un altro, un baracchino normale che non mi interessa, secondo te no, cosa succede se trasmette in 27? No, diciamo, bisogna vedersi da quando arriva quel discone. Quello che ho io l'ho usato tante volte in 27 per di segnale, diciamo, di radiatore, perché c'è un guadagno molto più basso rispetto alla manta, ma funziona lo stesso. Controllati per sicurezza le stazionarie, perché non so se c'è quel discone che parte da 20 MHz, perché c'è un altro che parte da 40 o da 50 MHz, se metti quello lì e fai danno, nel senso le stazionarie sono troppo alte e devi accordare, però accordando non è che fai, è come che stai uscendo con questo di ferro. No, è da 25 a 1300. Allora già va bene, provalo, magari se ci sono troppe stazionarie prova a accordarlo un pochettino, ma col TM1000 già ce la fai, dai, provalo e vediamo il confronto di segnale, se per di nuovo. Ok, dopo lo provo, devo provare, dopo adesso continuo un po' qui, poi quando se ne vanno come dire, un po' di gente che è più tranquillo, visto che non c'è nessuno con cui parlare, mi metto a misurare. Ok, come l'ascoltate Antonio, Riccardino e Luca? E tu Luca? Ma chi è che sta fischiando? Si sente sempre questa portante fischiando, cos'è tu Antonio? Ah così, Natalino è con Rix, riprendi tu Riccardi, dai, comunque va benissimo come modulazione, poi se ci abbini un altro tipo di microfono sarai ancora più forte. Avanti il breve. Ehi, buonasera, in compagnia mia di Antonio Riserva, c'è Luca, forse si è allontanato, Natalino con Rixi, ti rilancio a Riccardino così gli dai un rapporto di radio e di segnale. Avanti Riccardo per Claudio. Ciao Claudio, ben ascoltato, anche a Gianni si in ascolto e mi dai un rapporto di segnale. Sto usando un K, è un 430. Sì, spinge. Ti hai presente che è un Tanner, questo, un Tanner più 2, non è neanche il microfono, diciamo, più performante per quel tipo di radio, sta andando alla grande, ascolto perfettamente, molto, molto chiara la modulazione, ok. E di nuovo a te Claudio, sono contento, dai, guarda, avete fatto un affare, guarda, a me non mi interessava, me ne pentirò più avanti sicuramente, però per quel prezzo avete fatto un grandissimo affare. E gli avete fatto qualche modifica o direttamente l'avete alimentato? Quindi riceve bene, avete provato l'antenna? Ehi, aspetta, c'è qualcuno che chiama, avanti chi chiama? Boh, io l'ascolto basso basso di radio, non capisco chi è, altro tu l'ascolti meglio di me, Maria, nelle zone vostre. Claudio, hai ascoltato ad Antonio? Hai ascoltato Antonio a Claudio da Muro? Sicuramente. Ok, ti saluta comunque. Non riesco a tirare, cioè ti tira fuori, però tu probabilmente, come hai detto, non lo ascolti, perché situazioni precarie, anche se c'è una grandissima radio, lui piano piano ritornerà come i vecchi tempi, anche Antonio, che si faceva ascoltare alla grande. Tu Riccardi lo ascolti ad Antonio? Qualche volta dico a momenti, di solito lo sento, però qualche volta c'è il QRM che ho propagazione, più QRM forse, che lo copre a momenti. Ok Claudio, un'interrogazione, quell'apparato lì quindi non è alimentato a 110, era a 220, hanno messo uno sostituto trasformatore. Quindi lo tenete originale a 110 più trasformatore esterno? No, pensavo a quel punto, vabbè, se lo volete tenere originale lascialo a 110, se no gli mettevi un trasformatore a 220 e così non sappiamo se il trasformatore esterno. Sta uscendo una... C'è un altro più da fuoco. Cosa sta uscendo bene sino adesso Claudio? Gianni, sta uscendo tutto scoppiato, mi cosa hai toccato? No, adesso va, se è andato bene, ma poco fa non si capiva niente di quello che dicevi. Qua sfascia tutto. Minchia. Guarda che stai creando problemi, ti bruci l'apparato, stai attento, se non si capisce niente, solo un rumore, non ho capito niente di quello che ha detto, o non stai schiacciando bene il PTT, perché prima a momenti sei uscito bene, poi tutto un rumore di fondo brutti. Adesso sei bassissimo, in radio non c'è più quel difetto, non so cosa stai toccando, controllati tutte le connessioni, non stai uscendo di radio, sei quasi inesistente di radio. Sta arrivando l'ambulanza, sta arrivando. Ti soccorre, sta arrivando subito. Ti fanno il tia Xiaomi, Pomponio. A me no, lui sì. Ciao, Marco. Abbassate il volume della radio, Antonio, mi fai sotto tu ogni volta che... Se sono con il microfono amplificato normale, non sono mica con l'alfa, no? Sai che sono nel male adesso, quindi chiaro che l'ho chiaro. È attaccato. Anche tu sei proprio attaccato. Caruccio, sì, tu sei quello di camminare, lo stacchiamo un po'. Staccato, ecco qua. Radio chiara. A posto. Adesso va molto meglio. Cioè, rompi le palle a me e ogni volta che entri, cazzo, siamo uno attaccato all'altro, di buono attaccato lineare. Boh, non ti capisco io a te. Proprio non ti capisco. Io sto uscendo col capo, non è un lineare attaccato. C'ho 20 watt, già si vede. Se ti attacco lineare te ne accorgi. Non c'è bisogno. Sei tutto esatto. Cosa devi attaccare? Ho capito. Ma se è attaccato anche io, lo sai. Se senti anch'io, a parte tutto. Vabbè, comunque sia, a futidini, va. Aspettate, volevo sentire da Claudio da Muro. Avanti di nuovo Gianni o Claudio, uno dei due, volevo capire cosa è successo. Quando io attacco Antonio, sto facendo le prove, tu non sei nel canale 10, capito? Quindi non ti sto disturbando. Non sei nel canale 10. Se sei all'ascolto, a me non me ne fotti nulla. Ascolti. Se sei nel canale 10 che parli con me, non attaccare, perché io non ti capisco. Quando stavo tu con te stasera, andavamo sul canale 10, se ti ricordi bene, andavamo tutti e due assieme. Dopodiché ho pirato staccato, mi hai detto tu, tutto lì, basta, il discorso è finito lì. No, c'è entrato lui e si è andato attaccato, non c'è bisogno di attaccare. Attacca quando devi parlare con qualche altro fuori, non c'è bisogno di attaccare, io non ti capisco se attacchi, siamo troppo vicini, ancora non hai capito. Ho attaccato solo quando c'è la cosa, poi sei entrato anche tu, già lo dato di corno, il cazzo che c'è la cosa, stava andando in cose, in traghetto, vaffanculo, già lo sai anche tu, c'è anche tu, non è che ce lo so io. Adesso ti sto dicendo, cazzo, rincoglionendo ti stai, adesso non c'è bisogno di attaccare. Prima era prima, adesso non attaccare, se no io non ti capisco. Porca miseria, l'avevo. Avanti, Robè, cos'è che hai detto, Robè? No, invece la Muro, su Claudio e Gianni stavano saturando di brutto. Vediamo di nuovo se hanno risolto. Avanti, Claudio o Gianni. Adesso benissimo, 9 più 10, radio 5. Facciamo riprendere a Riccardino, che è in parcheggio da un po'. Avanti, Riccardino. Adesso sta andando bene, Cla. Stavo guardando il telefono, mi sono perso intanto che stavate parlando. E vabbè, sono qui. Oh, io mi assento tipo 5 minuti, dai, arrivo subito. Continuate voi. Lo so, infatti io sto facendo scorta. Devo andarne a comprare anche altre di pile da 9 volt. Ciao, buonasera a tutti. Io sono il terzo che ho giù col cane, c'è anche Antonello Alessio. E vabbè, scorta, io ce l'ho una la pila, la batteria nell'MB più 5, nell'MB più 4, nel Turner, non è che si scarica così, no? Va bene, avanti Antonello, riprendi. No, la coppa da tutti, perché tutte le batterie non è vostro, non lo so io, anche la 7 addirittura, qui sto scherzando, già lo sai. Comunque sia, vabbè, capita a volte, secondo che il microfono ha uno, cosa fa? Senza limitazione non può fare nulla. Io ho capito, vabbè, però non è che si scaricano molto facilmente, io c'ho un bel po' di tempo su più 5, su più 4, sul Turner, sul, non mi ricordo, vabbè, ce n'è un altro anche dentro l'armadio che non è il mio. E quindi non è che si scaricano così, evidentemente erano già batterie vecchie, capito? Avanti Riccardo, prendi, dai, datemi 5 minuti che io mi metto in sesto, che mi spoglio, sono rientrato adesso, vai Riccardo. E va bene, claro, continuate, rilancio, boh, Muro. Ecco. E io un attimo devo cucinare, farò fare la cena, quindi a un certo punto riprendi tu e arrangiti tu, perché te lo fai girare più tu. 10 minuti, cucino e poi rientro. Positivo, vai. Ciao Massimiliano da questo, ciao Claudio, ciao tutta la ruota. Ciao Massimiliano, ben ascoltato. Ho capito che ci siamo già sentiti prima, che stava andando bene. Comunque, Claudio, ma è un apparato vecchio a quanto ho visto, non è una cosa nuova, oppure ho sbagliato io nella ricerca? Positivo, va bene. Bella mossa. Salutando anche a Riccardino. E a bianco per me, Massimilia. Kappa, anda bene mera. Vai, Claudia. Ehi, va bene, a voglia. Sta andando alla grande, quasi Santiago 8, Radio 5. E allora va bene, a luglia, va benissimo. Va bene. Ehi, fai bene. va bene, Corriere, io ho un secondino che vado con te a Cap Piccolo, Piano piano però, Io vado andando piano, non ti preoccupare. Ma fatevi fare, metto questa parte, non so dove, cazzo. Susanto, che l'ha fatto? Cos'è? Io te lo dico dopo, là, quando vieni, vai a fare la pipì, poi già ci sentiamo a fare un paio di minuti. Tranquillo. E io un secondo che sto facendo la cena, 2 minuti. Break! Avanti! Salutoni circolari a tutti! Buonasera anche a lei, ben entrato, dottore! Beh, Antone! Un po' entro, un po' esco, insomma! Sono sgobizzato, infatti! Aspetta un secondo che io sto facendo la cena, Simona! 2 minuti e poi rientra, va! Facci, facci! Sono rientrato. Bueno, bueno, buonasera. Chi è? Come? Chi sei? Daniele sono, e voi non mi riconosci. Daniele, io sto mi futti, adesso sto sembrando un'altra persona, ma non è lui, il segnale è troppo forte. Ciao Daniele, ben sentito. Come mi ascoltiamo? Forte e chiaro quanto è, ma vabbè. Perché sembrava la voce di Rubrofetta, siccome sono da moto che non lo sento, però ho detto ma il segnale è troppo forte, 9.35, e dove? Sotto casa. Comunque ben sentito, c'erano, mi sono assentato un pochettino, c'era Antonello, Claudio, Riccardino, Marco e poi non so se c'è qualche altro. Avanti, fatemi. Ah, c'è Claudio da Muro su pure. Avanti Muro, su, per, poi ci dirà chi c'è. Mi sa che siamo rimasti noi due, perché Antonello si è spostato, adesso vanno a preparare la cena a Simona. Poi gli altri non so chi sia rimasto. Riccardo non c'è. No, mi sa che Massimiliano si è spostato lo stesso, è andato a Cutia Capicolino. E Usaccio poi chi c'è? C'era Antonio Riserva, vediamo se è rimasto ancora, altro ci sei. Tutti scomparsi, mi sono contato 2 minuti, è scomparsa tutta la combrica. Tu c'hai un segnale allucinante, stai salendo da 9.20 a 9.35. Cosa stai combinando tu, Daniele? Ancora alto il segnale, io sono staccato adesso, Robè. Sto andando con forse 1,5 watt. Sei quasi 9.25. 1,5 watt, 1,5 watt, prima ero attaccato. Ma c'è dei picchi allucinanti, mi parti da 9.15 e arrivi quasi a 9.25. Cava. Questa è l'ora 87, Robè. No, ma sta spingendo anche una bomba, è attaccato con cosa? No, è liscio. Guarda, adesso ti faccio il passaggio attaccato, aspetta. Guarda, adesso mi sono attaccato, Osarice, 1, 2, 3, 4 e 5. Da 9.25 arrivi a 9.35. No, ma dico, cosa c'hai attaccato? Una scarpettina era prima. Sì, ho capito, ma che cos'è? Che marca è? Che cos'è? Ah, la B300 della CTE. No, esci bene anche perché non ti mangi la modulazione, normalmente quando toccano che si aiutano c'è sempre qualche problemino, invece tu stai uscendo alla grande, pulito, bella piena, niente da dire, non cambia nulla. Cava. E si conferma. Già funge. L'unica cosa, Mari, ti ha ascoltato meglio come radio, è sempre chiara a 5, però sei un po' nasino, non è la tua come in verticale. Che microfono è questo? Lo so, Robè. Il problema mio è sempre la modulazione, la voce, questo è gemello del CTE, però è marcato Midland. Ma c'ha il coso, il controllo di tu? No, questo è un microfono da palmo normale. Prova allontanato un po' dalla bocca, Daniele. Guarda così, Robè, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso sei tu, forse te lo stai mettendo troppo vicino alla bocca. Cappa. Aspetti, faccio sentire un altro microfono, Robè, però lo commuto sul 48, aspetta. No, così sei tu, infatti eri troppo, pari uno muovici. Daniello Gabbè. Guarda questo, Robè. Questo è il 48. Aspetta un attimino, avete parlato in due. Vai, Daniele. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo è il 48. Lampade di effetto elicottero, però fammi sentire senza niente. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo è Daniele che mi ricordo io, stai andando alla grande. L'altro spinge di più, però. C'è differenza, dai. Riprendi, Riccardi. Daniele, mi sei? Ehi, Lugaria, aspetta, fai riprendere a Riccardino. Ciao a tutti, comunque, a tutti quelli che sono entrati in frequenza e come ho detto sono tornato. Come Riccardo, buona città, Ciao Luca, ciao Massimiliano, va a te a Massimiliano. Positivo, positivo, dai, saluto a tutti, ciao Daniele, Roberto, Luca, Riccardino e chi ci fosse ancora in ascolto in canale 10, dai. Ciao Massimi, ben ascoltato, dai. Riccardo dove sta parlando? Non sono a tamburlano. No, Riccardo sta usando un 43 con le tanne più 2. Naturalmente non è l'ideale di cosa, ma già si fa sentire. Va bene, io non ascolto molto bene invece. Sembra che trovata a Murlana. Massimiliano, ce lo vuoi dire, ma cosa è successo? Qualche lutto hai avuto? Sì. E di che cosa? Non fatelo qua, dai. Ah, mi dispiace, dai, ti faccio le condoglianze anche se non so esattamente cosa è successo. Ho letto su Facebook qualcosa, però non ho capito cosa è successo. Comunque, mi dispiace, non so cosa sia successo, naturalmente ne parleremo in altre situazioni. Ok. Avanti Lucarie. A Daniele volevo dire cosa mi sta ascoltando. Fai un passaggio, Lucarie. Vabbè, la radio Daniele, va! Attento Daniele, cambi! La radio è buona, Lu, va bene! Va bene, dai! Tu sei 7 a picchi di 9, Massimiliano lo ascolto un po' basso! Non lo so, io non ho toccato niente! No, io ascolto tutti precisi e perfetti! Ma Muro, su che fine ha fatto? Ha cambiato qualcosa? Cosa? No, dicevo, se da Roberto è cambiato qualcosa, il mio segnale radio, Sei 9 più 15, diciamo ti ascoltate in altre situazioni anche più forte, ma probabilmente utilizzavi altre cose, dai, qua sei 9 più 15, più o meno il tuo segnale. KK, va bene, e là scende l'epidemia del 2009 a Sassari, cazzo, ciao Lugari, riprendi, vai. Stavo dicendo, ma Muro, su che fine ha fatto? Fatto bianco un attimo. Ah, ok, vai Luca. A 10 minuti mi arrivo subito, anzi ci siete, a dopo. Ma col telefono stai uscendo? Sì, quello che venite a tappi tu. No, stanno grande. Segnale 9 e oltre e Radio Super 5. E Antonio Riserva è rientrato. Ti rilancio per Massimiliano se ti ascolta, che è uno dei più lontani. Avanti Massimiliano per Antonio. No, io lo saluto ma non lo sento. Io sono rientrato, buonasera di nuovo a tutti. Qui sta una San Radio, mi hai dato Claudio Giambarra. Io ciao Cla. Io Antonio Riserva non lo ascolto, vabbè, pazienza. Avanti, lo saluto comunque, vai, fallo riprendere e mando i miei saluti, ma lui sicuramente già mi ascolta. Ehi Antonio Riserva ti saluta Massimiliano Bulldozer che non ti ascolta. Cosa sto operando io, vuoi sapere? Perché non mi senti bene? Adesso ogni tanto già ma radio, tu già segui 4-5 al giorno. Vabbè, per far vedere che anch'io sono col baracchino, c'ho il bip, capito? La cosa, la sfilata dei 3009, tutti con i bip, ogni volta mi fate nei soldi, allora pongo pure lo bip. L'unica cosa, se vuoi tenere l'amicizia mia non ti puoi unire effetto elicottero. Effetto elicottero, non c'è elicottero, no? Non sono quel elicotterista. A che va per la maniera dell'effetto elicottero, mamma mia, qua in città lasciamo prendere, poi ognuno deve fare quello che vuole, non sarà meglio di cane, però visto che siamo tutti più o meno vicini, già va bene la modulazione normale, senza niente. Altro, quando è che ci farai sognare con le tue antenne? Cosa hai detto? Non ho capito, su due coperchi di punto, ma specchietti se parlo. Non ho capito altro, non riesco a capire quello che ti sento male. Abbassa appena il micchigino tu, appena. No, così no, è troppo basso, mettilo com'era, ma l'impedenza quanto ce l'hai, a 50 o a 500? Lascialo così ma non gridare tu, perché cazzo veramente esce un bel male quel microfono. Cosa avete di che? Massimiliano, ma tu mi senti bene a me? Io sì. Ah, vabbè, no, perché ogni tanto mi dicono, ma cambi radio, esci male, qui, là, Non ne comprendo più nulla, io. Ognuno dice la gioia, no? Infatti io sto modulando con la potenza della radio, del baracchino, non della radio. Va bene così, dai, avanti Riccardo. Sono qui, mi sono perso, scusatevi. Sei perso dove ti sei? Cosa? Niente, non ho capito più, mi sono perso tra le chiacchiere. Così, devi stare più attento allora Riccardo. Ok, vediamo se Luca, grande Luca rientra. Nulla. Vediamo chi è rimasto, ma c'era anche Marco Condor. Io non ho sentito nessuno. Prima, poco fa c'era, c'è andata via un po' di gente. Vediamo se Claudio D'Amuro si è rientrato. Nulla, vai tu Massimiliano. Positivo. Ma perché stanno facendo questione il 10 con l'elicottero? No, sto dicendo, poi ho detto Massimiliano, non è una polemica, però quando siamo qua in coso, vicini, va benissimo anche la modulazione normale, poi se devi fare divertimenti sono altre cose, uno è libero di farlo. Ehi, ma io ti ho fatto una domanda, perché mi sembra di non averne sentito gente con l'elicottero nel 10, capito? Magari è successo qualche volta così, giusto per divertimento, ma in genere si fa questo o così. Mamma mia, come sto? Daniele, tu non ci avevi finito l'elicottero poco? Ehi, però l'ho tolto subito, perché qua nel 48 mi sono dimenticato di staccarlo. Lo vedi, ma qualcuno, no, senza dire niente a Daniele, ripeto, però qualche volta capita che qualcuno per provarlo è coso, e magari se ne dimentica già burro. Anche quello fare radio, lo beh, era di una frutti. No, non sono polemiche, Massimiliano, lo sai benissimo come la vedo io la cosa, io forse volevo sentire le radio tranquille, riposate, e poi ognuno fa quello che vuole, me la fottimità. Se mi disturbano, spengo il baracchino e mi nando, non ho nessun problema. No, siccome, no, vabbè, stiamo chiacchierando, non è niente, ma siccome ti ho detto, se non vuoi perdere la mia amicizia, non metterti l'effetto elicottero. Ma così tanto ti disturba questo effetto elicottero? No, ma era una battuta per Claudio, che Claudio non ha mai inteso in effetto elicottero, il BP sì. Però l'effetto elicottero no. Guarda, tu puoi pregare che io del Cobra non c'ho il microfono normale, capito? Non c'ho il microfono normale, perché se no ti avrei messo il microfono normale e ti avrei inteso, da voi vado a intendere l'elicottero con l'eco. E questa radio ce l'ha, ma io non lo posso usare perché non c'ho il microfono normale, capito? Eia, però c'è il bip inseribile o disinseribile il bip? Ricata uno a casa sua. Cosa, Ricata? Meno male che per certi elementi questa passione viene praticata ognuno a casa sua. E cosa volete dire con questo? Per certi che entrano a rompere e non fare queste O. Hai capito cosa vuoi dire? Il Claudio così, un disturbatore seriale, Riccardo. Qui è importante, hai capito cosa vuol dire? Che meno male che siamo tutti, ognuno a casa sua, se avessimo modulato tutti dalla stessa postazione, allora mi era uscito un casino, quello vuol dire. Ah, vedi qualcuno che afferra il concetto. Ci sta mettendo in riga Riccardino, ci ha messo in riga tutti qua. Ehi, a te puoi mettere in riga, no, a me no, certo, aveva vai, gira. E vabbè, non ha detto niente, ha fatto un'affermazione anche abbastanza giusta, perché io poco fa ho detto cosa a Antonello Alessio. Cazzo, siamo qua, siamo a 100 metri di distanza, ma dall'altro cazzo mi attacca un lineare. È chiaro che io non ti sento, ti ascolto male. E così è la stessa cosa. Quando io sento Daniele con l'eco, che siamo vicini, è molto più forte di come mi arrivi tu dagli punti, Massimiliano. A me non me ne dà fastidio, per carità. Forse questo è il discorso che stava dicendo Roberto. A me l'eco mi piace, non lo posso usare, perché non lo posso usare per cazzi miei, però dico, a me fastidio non me ne dà. Però quando sei vicino, che sei troppo forte, o con l'eco, con le lineare attaccato, è fastidioso. Ehi, adesso avete ragione, no? Vabbè, io faccio bianco, no? Mi sposto un attimino e vado a farmi un po' di eco, un po' di eco elicottero negli altri canali, va? Ci sentiamo, ciao, buona serata a tutti. Ciao Massimiliano, ciao, buona serata. Va bene, avanti, Robert, riprendi, dai. Ehi, allora, ci sono i canali apposta per divertirsi, per fare quel tipo di divertimento, dai, niente da dire, ognuno fa quello che vuole, però come hai detto tu, se siamo vicini, cosa te ne affutti ad attaccare lineari, potenze da paura, se uno attacca dall'altro, lasciamo perdere, dai, non si fanno polemiche. Ok, Daniele, ci sei ancora, facci sognare. Ehi, Ahmi, altri due minuti che mi hanno già chiamato, la pappa è pronta, se no mi lasciano all'asciutta oggi. Ma non sei passato, Daniele, mi hai detto passato. No, vabbè, non ce l'ho fatta a passare perché ho fatto smontante notte. La verità sì che non mi sono spostato di casa di un millimetro. Stracco. Ok, vediamo se Antonio Riserva ci fa sentire un po' meglio di prima. Buonasera. Avanti, chi è? Ciao, buonasera a tutti. Ciao Claudio, ciao Roberto, Salvatore, da questa. Ciao Salvatore, ben sentito. Ricordami dove moduli tu? Siamo vicini, zona Cappuccini. Zona Cappuccini, così? Eia. Sì, ti ascolto bene. Ok, in compagnia mia di Claudio, Riccardino, c'è Antonio Riserva, Luca dovrebbe rientrare, Daniele, basta, mi sembra Riccardo non so se l'ho detto, vabbè, vediamo Riccardo se l'ha ascoltato a Salvatore. Salvatore, ben sentito. Ciao Riccardino, ben sentito anche a te, voce giovanile, quindi sei molto giovane, fa piacere sentire nuovi ingressi. Io ho segnato Claudio, Daniele, Riccardino, Antonio, Roberto e poi, perdonatemi se non ho scritto tutti quanti. A te Riccardo ancora. Ok Salvatore, se non sbaglio non ti ho mai sentito in frequenza. E qui nella 27 raramente, tra l'altro sto andando anche in condizioni molto rimaneggiate, sto andando con un dipolo, immaginati, perché sono tutto il parco antenne giù, perché dobbiamo fare dei lavori, oramai sono già un anno e mezzo che li dobbiamo fare, però ho dovuto abbassare tutto quanto e mi sono dovuto arrangiare con un dipolo, ho fatto un V inverte qua nel terrazzino di casa, ma è indirizzato da tutt'altra parte, è giusto per sentire e tenermi compagnia mentre quando accendo il computer si riesco a sentire anche qui in 27, solo per questo, per cui ultimamente non sto neanche operando un granché in tutte le bande, in HF. Giusto poco fa ho finito di sistemare la radio e l'antenna per le V e le U e stavo facendo dei test toccanti su un ponte che c'è sopra Imperia. Non sono un grande partecipatore ultimamente, Riccardino, quindi non ci siamo mai sentiti. Prego ancora te, poi fai girare, prego, agli amici. Ok, va bene, Salvatore. Ma chi è che stava parlando? Io sono in mezzo al QRM, ho sentito, ma chi era Roberto? Salvatore, l'ho conosciuto altri tempi fa, insieme a Salvatore ci siamo sentiti, Radio Amatore, collega tuo, Claudio. No, Salvatore l'ascolto un po' bassino di radio con due segnale 9, Radio 5 bassina, però ti ascolto, ti tiro fuori perfettamente. Ti rilancio torre di controllo avanti, torre per Salvatore. Io non ho colleghi, io sono CB, non sono Radio Amatore. Ciao Salvatore, buonasera, ben ascoltato. Ciao Cla. Purtroppo sto uscendo con un dipolo più inverted nel terrazzino di casa, bassissima potenza, questa è la condizione. Ho aumentato leggermente, spero di riuscire ad arrivarti adesso. Guarda un pochettino, Cla. Sì, un po' meglio, poco fa di mezzo al QRM e ti copriva la propagazione, beh, comunque già stai arrivando adesso. Va, fai una cosa, controllami ancora, dimmi se va bene così, perché non voglio uscirmene fuori. No, già va bene, lascia così, dai. Hai aumentato un pelino, ma no, non è che sei molto forte. Ok, tu lo senti meglio, Robe? No, vabbè, lui già arriva forte qua, già 9, adesso sei salito a 9 più 5, dai. E vabbè, probabilmente siamo molto più vicini di te, sono più aperto, solo per quello. Perché con Claudio, se lo sai, siamo abbastanza vicini, però io ancora più vicino verso di te. Ok, tu Riccardo, quanto l'ascolti a Salvatore? Scusate, riprendo io che qua è pronto, dai. Buon QSO e buon tutto, alle prossime se coincide. Se mi fa un passaggio lo guardo. Aspetta, avete parlato di due. Aspetta, Daniele, riprendi tu che forse sta andando via, Daniele. Scusate un attimo, avanti Daniele. Sì, era per salutarvi, dai, buon tutto e buon proseguimento che mi hanno chiamato per la cena. Ciao Daniele, buon tutto, buona carica, dai. Vai Claudio per i saluti per Daniele. Vai Riccardo. Ciao Daniele, ben sentito e alle prossime. Vai tu Salvatore, sei ascoltata Daniele. Sì, sono riuscito a sentirlo. Ciao Daniele, buona serata e arrivederci a presto. Prego Roberto. Stavo dicendo Riccardo, quanto l'ascolti di segnale per avere un confronto con la mia zona a Salvatore? Santiago 9, Radio 4. Ok, più o meno lo stesso segnale, io ho 9 più 5, Radio 5. Però come mi ascolti a me Salvatore? Ti prendo 9-10, 9-10, una radio di 5, ottima. Ok, ti confermo. Mi confermi, ci siamo sentiti qualche anno fa noi, o sbaglio Salvatore? Sì, assolutamente sì. Ciao carissimo, ti ho sentito tutto. Sì, Robè, ricordi bene. Poi sono finalmente riuscito a dare impulso all'attività radioamatoriale, in 27 sono entrato praticamente poco e niente, anche perché mi si era, ai tempi ci sentivamo che avevo ancora la Game Master come antenna, poi poi ha preso fuoco e quindi ho mollato e in pratica se entravo nella 27 entravo con quelle che erano le direttive dei 10 metri, giusto per salutare velocemente, perché ovviamente è un'altra tipologia di trasmissione. Dai, e quindi è al tempo che ci sentivamo, qualche annetto fa, ricordi bene? Sì, poi anche io sono stato tanti anni fuori, cioè, mi sono rientrato un po' con questo coronavirus, la sera ci siamo riavvicinati di nuovo alla radio, sono stati qualche anno, mi accendevo qualche volta così di raro, poi da qualche mese siamo un po' qua ripopolando questa frequenza. Ok, vediamo un po' se Antonio Riserva c'è ancora. Avanti Antonio, non lo sento più, vediamo se Claudio c'è ancora, la torre di controllo, avanti. Io sono sempre qua, non vado via se non saluto, capito? Sono sempre qua.